con te dovrò combattere, non si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu lo sai. Sei peggio che una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. La donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma scegli buono che al momento giusto tu sai diventare un'altra. In un attimo tu, allora, sei grande, grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Lo vedo tutte quante le mie amici, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose e rosi e cravate per il loro compleanno. Dicono sempre di sì, non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì. E invece no, e invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni sono vivo, sono come piace a te. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio. Non lasciami mai più. Sei grande, grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo. E poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio. No, lasciami mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio.